Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Sono un esempio emblematico di una persona giovane che ha studiato all'estero, che insomma ha fatto delle diverse esperienze, però alla fine torna nel proprio paese, perché spero di poter contribuire a essere uno dei tanti giovani che investe nel proprio paese e ci crede, perché alla fine, voglio dire, se no, se non ci crediamo noi, non si riescono a cambiare le cose. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Una voce di speranza, quella di Isabella, ad aprire la puntata di oggi. Credere nell'Italia, questo è il messaggio di ottimismo che ci trasmette. Vi ricordo che il contributo è stato raccolto da Claudia Vanni nel corso del meeting di oltre 400 studenti ed ex studenti di 21 tra le più importanti scuole internazionali svoltosi in Liguria. E che dire, anche se siamo partiti con la testimonianza di chi torna, vogliamo dedicare idealmente la puntata alle decine di migliaia di giovani professionisti che, pur con curricula internazionali altamente qualificati, in questo paese, il loro paese, non trovano uno straccio di occasione decente per poter rientrare e contribuire alla ricostruzione. Oggi, seconda puntata dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che vi riguarda da vicino. Se volete andare a Strasburgo o visitare l'Expo di Milano, restate sintonizzati. Tra poco annunceremo il tema della settimana con cui partecipare. E la frase della settimana è copyright del presidente di Opel, Thomas Neumann. Le aziende italiane e il popolo italiano, in particolare le giovani generazioni, meritano di avere la possibilità di beneficiare della globalizzazione dell'economia senza essere obbligati a lasciare questo bellissimo paese, ha affermato. Più chiaro di così. Pillole di riflessione dall'Istat. In Italia l'incidenza della spesa in istruzione e formazione sul PIL era al 4,2% nel 2012, valore vicino a quelli di Germania e Spagna ma inferiore a quello dell'Unione Europea, e nel 2013 il 42% della popolazione in età lavorativa aveva conseguito la licenza di scuola media come titolo di studio più elevato, dato che si discosta di quasi 20 punti dalla media comunitaria. Al contempo aumentano, ma non abbastanza, i laureati. Ad avere un titolo di studio universitario è il 22% dei 30-34 anni, quota molto distante dall'obiettivo del 40% fissato dalla Commissione Europea. Così appare ancora più paradossale ascoltare storie come quella di Francesco. Lui una laurea ce l'ha, come ha pure un'esperienza all'estero di altissimo livello. Peccato solo che il suo paese non sembra sapere che farsene di questa potenziale risorsa. È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste. È un dato di fatto in tutti i settori. Tu vai all'estero, mandi il tuo curriculum, verrai valutato non in base alla tua età, al tuo aspetto fisico, solo in base al tuo curriculum. Francesco Di Rosario, 35 anni, è un ingegnere geotecnico al lavoro in Gran Bretagna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. A sorpresa, persino le tradizionalissime madri italiane si stanno globalizzando, almeno nell'approccio al tema emigrazione. Secondo un'indagine della Lewis Business School, le mamme più giovani, età media 34 anni, vedono nel 39% dei casi il futuro dei propri figli all'estero, contro un 28% che ritiene si possano realizzare in Italia. Poche incertezze sulla necessità di formarsi a livello di studio o professionale oltre confine, lo pensa l'80% delle madri intervistate. Addirittura il 93% si sentirebbe in colpa a trattenere in Italia un figlio deciso a emigrare. L'altra faccia della medaglia ci racconta che al momento in Italia ben 2 giovani adulti su 3 tra i 18 e i 35 anni vivono ancora a casa coi genitori, una percentuale doppia rispetto a Francia e Regno Unito e di 17 punti superiore alla media europea. Lo afferma Eurostat, secondo cui i giovani che vivono in famiglia nel nostro paese sono i 2/3 del totale, oltre 7 milioni. Il dato è in crescita di oltre 5 punti rispetto al 2008. Ma non va meglio a chi esce di casa, soprattutto al sud, a causa della mancanza di lavoro e di un sistema di welfare che penalizza il mezzogiorno. Nel periodo 2007-2012 la caduta dei redditi ha colpito soprattutto i giovani meridionali. Nelle famiglie con capofamiglia under 35 i redditi sono scesi del 25%, lo denuncia la Svimez. Aggiornamenti da Garanzia Giovani. Le risorse programmate per la realizzazione delle misure ammontano a quasi 1 miliardo, oltre 450.000 i giovani registrati, ma solo il 17% ha ricevuto una proposta di attività formativa o impiego. Forse fu in Erasmus a Parì, torna tu a Sorrento, io sto qui. Ma che ne so, pensavo fosse una battuta. Cervello in fuga, questo è il titolo dell'ultimo singolo del cantautore Pigi, dedicato proprio al tema del brain drain dall'Italia. Ve ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate di Giovani Talenti. Oggi il nostro ospite è proprio Pigi, che ci spiega il motivo per cui ha deciso di affrontare con brio ed ironia un tema così delicato. Il tema del cervello in fuga fondamentalmente è il tema di obbligo a togliersi da qua, perché perché poi lo scambio tra paesi, tra università sarebbe bellissimo, se non fosse obbligatorio, e quindi questo è il grande problema, che noi che siamo qua in Italia abbiamo spesso condizioni peggiori rispetto a tanti altri posti, quindi è proprio una sconfitta del paese, una sconfitta culturale, e quindi diventa un tema importante sul quale provare a scrivere qualcosa, anche se ovviamente la mia canzone è scema, ironica, insomma, ecco, però infatti, cercare di parlare. La chiave di lettura è proprio questa che hai dato, una chiave di lettura ironica, però nasconde il problema e anche il dramma, se vogliamo. Sì, sì, sì, beh, ho fatto andare via anche personaggi di canzoni importanti, tipo Marco se n'è andato non ritorna più, di Laura Pausini, però in effetti è così, sono personaggi che vanno, persone che vanno e che spesso non tornano, io ho anche amici fuori che insomma stanno là, hanno deciso di vivere lontano dall'Italia e con gioia, tra l'altro, a questo punto, però poi di fatto non è mai una gioia definitiva, perché la prima scelta magari voleva essere quella italiana. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta sulle sponde britanniche. Impressionante, realmente impressionante, in costante ascesa da almeno 2 anni, il numero di giovani italiani che oltre Manica puntano tutte le loro fiche, scommettendo sul proprio futuro, anche perché qui non pare davvero esserci un paese pronto a valorizzarli. Nome: Francesco. Cognome: Di Rosario. Età: 35. Città di origine: Salerno. Studi: dottorato di ricerca in ingegneria geotecnica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2007 prima e poi in maniera definitiva nel 2008. Per andare dove? Nel 2007 in Canada e nel 2008 a Londra. Perché? Mancanza di opportunità lavorative in Italia. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono un principal geotechnical engineer. Dove? Presso la sede di Londra della Jacobs. Tornerai? Spero di sì. In Italia la professionalità e la meritocrazia non esistono, in Italia il lavoro si trova solo per conoscenza, non ci dobbiamo lamentare solo dei politici, questo è un vizio comune anche al normale mondo del lavoro. La molla che ha fatto scattare Francesco verso la Gran Bretagna è la rappresentazione plastica di un paese che ha smesso di funzionare secondo le regole di una società moderna, perché lui questa Italia dei cerchi magici l'ha vissuta in prima persona. Francesco, siamo un paese marcio dentro, sempre pronti a venderci a chiunque possa farci qualche gentile concessione. La mia è una storia, un esempio, come la storia di tanti ragazzi che sono dovuti espatriare in mancanza di opportunità lavorative, perché in Italia si può notare dove non vi sia meritocrazia e all'estero questo lo si trova. La tua storia professionale è paradigmatica di un paese incapace di selezionare la propria classe dirigente. Partiamo con i tuoi studi. Nel 98 ti iscrivi a Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio a Salerno. Perché un settore così particolare? Perché sono sempre stato interessato ai fenomeni naturali e dopo la frana di Sarno, con tutto il disastro, tutte le persone che sono defunte, decisi di cercare di trovare una facoltà che potesse essere anche d'aiuto al prossimo. E scopri subito un'affinità incredibile col corso di studio, al punto che gli esami volano via alla velocità della luce e chiudi la laurea specialistica a soli 24 anni, passando anche l'esame per l'abilitazione alla libera professione. Ribaltando i ruoli, daresti un voto alto tu all'università italiana? In termini di conoscenze penso di sì, però il problema è che in Italia si studia troppo e si fanno anche troppi esami che forse non serviranno mai. Conclusa l'università inizia il mio calvario lavorativo, scrivi senza mezze misure a giovanitalenti@radio24.it. Allora, capitolo aziende private, qual era il tasso di risposta ai tuoi curricula? Il tasso di risposta era nelle aziende private era quasi zero. Ho mandato centinaia di curriculum, nel 95% dei casi non avevo alcuna risposta, nel 5% dei casi posso dire che avevo una risposta automatica. E non mi sorprende. Capitolo concorsi pubblici, qui se possibile pure peggio, perché ti rendi conto che non si cercano ingegneri ma burocrati per coprire le posizioni aperte. Cosa ti sentivi rispondere quando chiedevi spiegazioni sulle motivazioni nella scelta del solito, diciamolo pure, raccomandato? No, semplicemente mi ha chiuso il telefono in faccia, perché in molti casi si richiedevano questi aspetti burocratici, c'erano anche concorsi un po' più tecnici e dove uno si poteva più preparare. E poi che cosa succedeva? Che casualmente aveva preso qualcun altro, uno chiamava per chiedere spiegazioni, perché è diritto, soprattutto per un concorso in ente pubblico, diritto riconoscere, sì, risultati, sì, e telefono in faccia. Il telefono in bravi faccia. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesco Di Rosario, 35enne ingegnere geotecnico al lavoro in Gran Bretagna. Francesco approda oltre manica dopo aver rinunciato a una carriera in Italia sia nel campo accademico che in quello aziendale. Per lui nella penisola un calvario lavorativo che lo ha portato a scontrarsi con le migliaia di muri di gomma che hanno vanificato il suo pur ottimo curriculum. Al contrario, in Gran Bretagna sono fioccate occasioni e incarichi di responsabilità. Dalla capitale britannica Francesco osserva il quotidiano fiume di giovani italiani che approdano in Inghilterra e ha deciso di impegnarsi in prima persona per offrire loro un primo orientamento. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. A quel punto entri nel centro di ricerca universitario grazie al tuo professore di tesi, esperienza che ti gratifica anche se a soli 500 euro mensili. La carriera accademica non ti convince del tutto, temi di finire nell'immensa schiera dei portaborse, ma alla fine un concorso per un dottorato finisci col provarlo e da esterno alla Sapienza di Roma. La cosa più incredibile è che lo vinci ed esilarante è l'imbarazzo che provochi tra i professori o baroni locali. Quanti mesi ci vollero prima che ti assegnassero un docente? Credo un 2-3 mesi. Ricordo ancora l'imbarazzo di quando vinci il dottorato, perché si sa che è una consuetudine, diciamo così, che in molti casi il dottorato vengono vinti dai ragazzi. Qualche mosca bianca però ce la fa. Fortunatamente qualche mosca bianca ce l'ha. Pensa che chiamarono da Roma all'Università di Salerno per sapere io chi fosse. Cioè, perché era un fatto insolito, come se fosse un alieno. Un extraterrestre. Fortunatamente però viene assegnato a un bravo professore che ti manda 4 mesi in Canada. Quale mondo al contrario scopri nell'America del Nord? Qui funzionava tutto. Avevo uno studio mio solo per me in mezzo ai grandi della geotecnica. Si parlava di futuro, si parlava di ricerca. Era qualcosa di programmatico. Se mi ispirava molto di più continuare la carriera accademica. Francesco, a 28 anni concludi pure il dottorato e pensi, forse ingenuamente, se non sono appetibile adesso per il mercato del lavoro italiano, allora invii 100 curricula. Quali i risultati? Gli stessi, 95 senza risposta e 5 con risposta automatica, quindi sempre negativi. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. E così, mentre sempre più disilluso osservi che gli unici tuoi colleghi con un lavoro sicuro in Italia erano, che strano, figli di ingegneri o famiglie ben inserite in società, tenti la strada del lavoro all'estero. Segui le orme di tuo fratello, emigrato un anno prima a Londra, e mandi quasi per gioco 5 curricula oltre manica. Come va a finire? Ho fatto 4 colloqui in 3 giorni. Ma... quindi da che era una persona inutile, non riuscivo a trovare lavoro in Italia, nessuno mi rispondeva, tutti mi volevano in Inghilterra. Ma com'è possibile? Sono così ubriachi questi inglesi da voler assumere un candidato straniero senza esperienza, esperto di frane in un paese quasi senza montagne, ti chiedi incredulo. A distanza di anni che risposta ti sei dato? È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori, e tu vai all'estero, mandi il tuo curriculum, verrai valutato non in base alla tua età, al tuo aspetto fisico, solo in base al tuo curriculum. Semplicissimo. Il tuo primo lavoro è per una consultancy di ingegneria, inizi a lavorare una settimana dopo la fine del dottorato, ti occupi anche di metropolitana londinese, ma non finisce qui. Dopo 2 anni ci riprovi, laurea, dottorato, 2 anni di lavoro in UK. Allora, invii curricula a tutte le principali aziende italiane di ingegneria civile e ferroviaria. Con quale, ancora una volta, incredibile risultato? Sempre lo stesso risultato, nessuna risposta. Applicavo anche a posizioni aperte, chiamavo, cercavo di parlare con l'HR, quindi con una persona delle risorse umane, con l'ingegnere di turno, e una volta in più mi veniva chiuso il telefono in faccia. Nel frattempo gli anni passano, durante le Olimpiadi di Londra tu, giovane ingegnere italiano, sei l'unico geotecnico presente con l'enorme responsabilità di dover approvare tutti i giorni le condizioni del suolo, insomma senza di te le gare olimpiche non cominciavano, ma in Italia il tuo profilo non interessava. Dove lavori ora e di cosa ti occupi? Allora, lavoro presso la Jacobs di Londra, che è una società mondiale, e mi occupo in questo caso dobbiamo iniziare ora la progettazione di Thames Tideway, che è la nuova fognatura che faranno a Londra, e poi anche con altri lavori sempre per London Underground. Brevemente vorrei anche ricordare con te l'utilissima iniziativa Benvenuto a Bordo, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa con Alessio Forte. Voi siete un gruppo di volontari che aiutate le decine di migliaia di giovani italiani che ormai invadono Londra a orientarsi nella capitale britannica. Qual è il tuo consiglio fondamentale, uno, per chi sta preparando la valigia per l'Inghilterra? Venire con un inglese che sia non scolastico ma un inglese buono, e portare un po' di risparmio e di avere vuole anche tanta determinazione. E c'è una cosa che ti demoralizza quando arrivano i giovani italiani: l'atteggiamento. È un atteggiamento culturale. Qual è? Tutti quanti vengono e chiedono: mi trovi un lavoro? Mi aiuti a trovare un lavoro? Però nessuno, o quasi nessuno, ti chiede come posso trovare lavoro. Loro non sanno cercare lavoro, non sanno proporre, perché pensano sempre che il lavoro lo si trova tramite conoscenza. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Una proposta concreta sarebbe un po' provocatore. Io penso che l'Italia dovrebbe ripartire da chi ha vissuto all'estero, perché ha visto anche l'altra faccia della medaglia, ha visto anche un modo di lavorare, un modo di vivere che segue più la meritocrazia e non le amicizie. Noi facciamoci il favore a vicenda. E ci raggiunge ora in linea Stefano Aversa, presidente di AGI, Associazione Geotecnica Italiana. Buon pomeriggio. E buon pomeriggio. Professore, le chiedo subito un commento a caldo sulla storia di Francesco di Rosario. Lei che idea si è fatto? Il cursus honorum di Francesco è la regola o l'eccezione in Italia? Francesco è uno studente brillante che è, diciamo, anche molto caparbio, che è riuscito, diciamo, a sfruttare, secondo me, molto bene le conoscenze maturate sia nel corso di laurea, perché la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio di Salerno è molto buona, ma credo anche soprattutto il dottorato di ricerca. Mi sembra che poi Francesco ha trovato rapidissimamente collocazione all'estero, perché lui faceva riferimento a una settimana dopo il termine. Il problema è l'Italia però, professore, com'è possibile? Certo, il problema è l'Italia, però diciamo è anche vero che questo diciamo vuol dire che la preparazione universitaria italiana, almeno quella del dottorato di ricerca, chiaramente associata alle capacità di Francesco, sono state di livello tale da consentirgli di trovare collocazione all'estero in una situazione molto prestigiosa. Tra poco ci torniamo. Ci spiega brevemente cos'è l'Associazione Geotecnica Italiana? È un'associazione culturale che rappresenta in Italia le principali associazioni mondiali di geotecnica e ha lo scopo principale di diffondere in Italia la cultura geotecnica, chiaramente. Dalla storia di Francesco emergono due grosse problematiche. La prima riguarda la carriera universitaria in Italia, insicura e mal pagata. Allora, possibile che sia solo colpa delle poche risorse a disposizione o non è un problema anche e soprattutto di selezione? Prima cosa, diciamo, vorrei dire che è vero, la carriera universitaria in Italia è insicura e mal pagata, cioè lo è sempre stata e forse lo è ancora di più per il combinato fra la nuova legge Gelmini e, diciamo, la crisi economica in cui versa il paese, perché, diciamo, l'ingresso all'università è molto lento. E quanto c'entra la selezione, professore? Beh, la selezione, io devo dire la verità, su questo invece io non concordo assolutamente, cioè nel senso che la selezione in Italia, almeno nella mia esperienza personale, è una selezione buona, non è rapidissima, ma è buona. Negli anni in cui Francesco si è dottorato, sostanzialmente sono stati 3 concorsi di ricercatori in Italia, in Italia, nel sud Italia, in Campania, a tempo indeterminato, e le persone che hanno vinto, io le ho inviato per conoscenza. Bisogna essere interni per vincere? Non bisogna essere interni, però, diciamo, prima di partecipare a un concorso di ricercatore c'è tutta una trafila di diciamo di contratti, di assegni che vengono dati tipicamente a persone valide. Ora, se lei vede anche l'elenco di tutti i dottori di ricerca che sono stati prodotti, alcuni hanno trovato collocazione all'interno dell'università, ma altri hanno trovato collocazione anche in prestigiose strutture fuori. Ecco, quindi, professore, poi c'è l'enorme problema del lavoro. Qui il muro di gomma opposto ai curricula di Francesco è disarmante. Allora, qual è il problema? In Italia si assume solo chi si conosce anche nel privato? Guardi, anche questo secondo me è vero solo in parte, cioè Francesco è stata una persona molto rapida ha trovato rapidamente collocazione all'estero. È vero che ha inviato moltissimi curriculum, ma i tempi ne avrà inviati 200. In Italia sono molto più lenti che all'estero, questa è la prima però cosa. Così poi ci facciamo scappare migliori, perché poi in Gran Bretagna 5 curricula, 4 colloqui e è assunto. Certo, ma diciamo questo è assolutamente vero, però diciamo nel frattempo prima cosa in Italia la realtà professionale è molto diversa da quella che diciamo c'è in Inghilterra. Grazie al professor Stefano Aversa. E domanda di rito per Francesco di Rosario: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Allora, di informarsi bene, soprattutto se si decide di andare all'estero, perché innanzitutto non esistono Eldorado, quindi qualunque paese ci saranno anche delle difficoltà. Consiglio anche quello di vedere, in alcuni paesi fanno dei programmi che si chiamano vacanza lavoro, come in Canada e in Australia, che possono essere d'aiuto, che può essere quindi un primo step, quindi un primo passaggio per andare all'estero. Prosegue l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 16 maggio per 10 settimane. Quest'anno raddoppiamo le opportunità, che riguarderanno un totale quindi di 8 ascoltatori tra i 18 e i 40 anni. Per partecipare è necessario inviare da adesso fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Ascoltate bene il tema della settimana, che è: indicateci una proposta in 140 caratteri per permettere l'istituzione di un contratto unico europeo che permetta di facilitare l'immigrazione professionale. Allora, come dovrebbe essere secondo voi questo contratto unico? Inviateci le vostre proposte in 140 caratteri con i vostri dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione però, inviate le vostre proposte solo fino alla mezzanotte di domani e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave Europa 10, ripeto Europa 10. I primi 4 classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo a Strasburgo e i classificati dal 5° all'8° posto 4 biglietti d'ingresso al padiglione europeo di Expo 2015 a Milano. Vi ricordo ancora la casella email per partecipare: concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'ufficio di informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi parliamo di un libro pubblicato negli ultimi mesi dalla FILEF, la Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie, dal titolo Le nuove generazioni nei nuovi spazi e nuovi tempi delle migrazioni. Un volume che studia i flussi migratori più recenti, in partenza dall'Italia, arrivando a conclusioni diverse e a cifre notevolmente superiori rispetto a quelle ufficiali, come ci conferma Rodolfo Ricci, coordinatore nazionale FILEF. Stiamo assistendo a un nuovo flusso massiccio di emigrazione dall'Italia, abbiamo flussi di immigrazione interna dal sud verso nord altrettanto consistenti, no? Poi abbiamo questi flussi verso l'estero che stanno riprendendo e che si cominciano ad avvicinare a quelli del secondo dopoguerra, in particolare degli anni, fine anni 50, inizio anni 60. Quali sono, guardando al 2013, i dati più realistici che voi in qualche modo avete cercato di calcolare? Mentre l'AIRE registra flussi di espatrio complessivi sono intorno agli 80.000 persone, soltanto la Germania registra circa 40.000 ingressi, anzi 45.000 ingressi di italiani sul proprio paese. Quindi, guardando al 2013, è ipotizzabile avere una cifra globale di italiani che sono emigrati quell'anno più realistica? Voi a quanto la fissereste? Noi diamo una stima che si aggira intorno alle 300.000 unità. Per maggiori informazioni, le nuove generazioni nei nuovi spazi e nuovi tempi delle emigrazioni a cura di FILEF e di S Edizioni. Un motivo per restare o tornare. In arrivo per la ricerca 10 milioni mirati a costituire 4 distretti tecnologici e a finanziare l'ingresso di giovani dottori nelle aziende agroalimentari per favorire occupazione, innovazione e rilancio del Made in Italy. I finanziamenti sono stati sbloccati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Giovani Talenti UE. Dibattete in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di marzo. Il premier Matteo Renzi ha recentemente dichiarato: sono 20 anni che i talk show parlano delle stesse cose, dei cervelli all'estero, danno l'immagine che l'unica industria che funziona e sia vincente è l'industria della lagna, invece quella che vince è l'industria della ricerca e dell'innovazione. È così, vi chiediamo? Parlare di cervelli all'estero equivale a lagnarsi? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.